Marisoni, rompeva i coglioni, rompeva i coglioni. Tutti i giorni porta ritardo, tutti i giorni potrebbe evitarlo. Ormai è noto, lo sanno tutti, che alle 6:30 ci manca l'aria. Senza Cruciani, senza Parenzo, insomma senza la zanzara. C'è chi rompe i coglioni per noia, chi li rompe per professione. Marisoni nell'uno e nell'altro, lui li rompe per passione. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché? No, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Radio 24 con Parenzo, mi vogliono a me ospite lì. Io ho detto che se continuano lì quell'ero, perché si sono fatti loro pubblicità con me, discriminando una persona comune per bene che l'ha fatto questo per i nostri diritti, a prendermi in giro e fare audience. Radio 24 non verrà ospite da voi. Non verrà ospite da voi. Non ci vengo. Parenzo, se sfotti quella poveraccia, no? Che dice l'imbissi, che a te ti fa ribrezzo perché dice imbissi, perché non solo lo sa pronunciare perché è siciliana. Se tu sfotti quella poveraccia, tu devi morire, crepare come un morto di fame nella peggio maniera. Te lo meriti e ti maledico. Stronzo, stronzo, stronzo. Uè, nano di merda! Quel nano malefico. Caro Parenzo e cara Cruciano. Parenzo! Siamo qui ragazzi, siamo qui, eccoci, finalmente è tornato Lotito, è tornato a parlare Lotito, adesso vi faremo sentire. Un caro saluto da Nuova York, da David Parenzo. Allora, è tornato a parlare per nostra fortuna, per la fortuna delle trasmissioni televisive, anche radiofoniche di tutto il mondo, è tornato a parlare il presidente della Lazio, Claudio Lotito. E in poche ore, passando da Matrix fino alla Berlinguer, passando questa mattina per Telese e finendo non so dove, il presidente della Lazio Lotito ha inanellato una serie di gaffe spaventose. Ma è il personaggio. Poi è stato anche pizzicato all'aeroporto. Come sempre, è stato pizzicato all'aeroporto mentre diceva che è tutta una sceneggiata. Andare. Tutta una sceneggiata, abbiamo fatto una sceneggiata. Ma ci sarà qualcuno lì, state sti ebrei? Una sceneggiata, mamo. Andiamo lì, portavamo una corona di fiori, diciamo tu stronzate. Ma chi sono sti ebrei voi? Dove stanno? Il rabbino. Il capo rabbino, perché? Il capo rabbino sta a Il capo rabbino sta a New York. Ci sarà il vice, il numero 2, il numero 3. Con chi parliamo noi? Andiamo là e diciamo, sono Lotito, sono della Lazio. Oh, c'è sta il rabbino o no? Rabbino! Ah, sta a New York, ci sarà il numero 2 allora. Ma non c'è il numero 2 sì, del rabbino. Io in questo lo Ragazzi, scuso. Ragazzi, questa qui è tutta, io dico solo questo, è tutta una sgrammaticatura. Giocasse a calcio, pensasse alla Lazio, basta mettere magliette di Anna Frank, puttana. La prossima volta che c'è ancora un paio di giorni di squalifica, ovviamente, i tifosi della curva della Lazio non vadano più allo stadio, basta, bloccata però, per gli ultras, vabbè. Finita la cosa. Ma basta, corone di fiori. Corone di fiori per chi poi? Ma chi cazzo è che è morto? Per Anna Frank. Ma spiegatemi voi. Anna Frank, ma se a me mi po- Anna Frank è morta in campo di sì, concentramento. Perché tu porti agli ebrei vivi delle corone di fiori? Io quello me lo sono l'hanno, chiesto. L'hanno prima buttata l'ho al Tevere. Adesso sto zitto, l'hanno te lo prometto. Buttata al Tevere. Vabbè, quella hanno buttata al Tevere che gli hanno detto. Poi ha scritto A con l'H ai nostri fratelli ebrei. A con l'H. Sì, è tutto sgrammaticato. Non mi riesco neanche ad arrabbiare, ti rendi conto? Che fa ridere. Fa ridere. Per questo. Perché tu a dei vivi gli porti una corona di fiori? Ma me lo vuoi spiegare? Però scusami, se a me avessero portato una corona di fiori, una corona di fiori, mi starebbero girati perché i coglioni, i tuoi perché amici, dico io sono vivo. Perché i tuoi amici ma giovani non so chi è della stato. Comunità ebraica hanno preso quella ma corona di so fiori. Ma non so neanche hanno... se sono stati sì, loro, sono stati non loro, so neanche no? stati loro. Sì, sono stati loro. L'hanno buttata e chi se ne frega. Hanno fatto bene. Perché fatto... non voglio. Ma chi se ne frega? Posso dirti? Guarda, io immagino già la scena. Intanto anche A con l'H ai nostri fratelli ebrei. Io immagino lì che chiedeva ai suoi collaboratori, perché non c'era tipo, ma chi sto sti ebrei? Ma che è sta cosa? Ma che se magna? Ma che è? Vabbè, ma che è? Non è proprio così. Dai ragazzi, no. Comunque è la cosa è incredibile. Comunque va benissimo. I rappresentanti della comunità ebrea che Dio, non è un gesto imputabile. Cioè il fatto che hanno buttato i fiori al Tevere non lo è so un gesto fatto, aspetta, non, lo so. Non è un gesto imputabile alla comunità ebraica romana. Ma scusa, ma allora perché accusano tutti i tifosi della Lazio del gesto fatto da quattro coglioni? Beh, scusa, è la stessa cosa. È stato rivendicato. Quello è stato rivendicato dai tifosi ultras della Lazio, ma che sono pure individuati. Se qualche giovane ebreo della comunità, che non lo so, ha buttato la corona, benissimo, si può buttare la corona, mi pare normale, no? Cosa la tiri tutto il tempo? Vabbè. Ma chi se ne frega? Adesso diventa il problema la corona buttata. Fermi e non tutti. Diventa un problema aver violentato la lingua italiana scrivendo ai nostri fratelli ebrei e aver detto oh, c'è star vice rabbino il numero 2. Ma non è tenuto a sapere se è un che problema. C'è. Ma perché non c'è il vice rabbino? Perché, perché non esiste? Ma la mamma di Anna Frank c'è sta o no? C'è sta un fratello, qualcuno, sta Anna Frank. Cioè, no, guardi, non è italiana. Quella stava da un'altra parte. Oh, ma dove sta questa? Una famiglia, c'è sta una roba da scrivere, c'è una lettera, Anna Frank. Ma perché? No, guardi, quella ha scritto il diario. Perché non avete quella vice rabbino? Ma chi ha scritto il diario? Anna Frank. Allora è viva. No, l'ha scritta prima di morire il diario. Ma non ho capito. Ma quando ha scritto suo diario? Ma come cazzo ha fatto a scrivere suo diario? Ragazzi, è tutto sbagliato. Ti rendi conto che è tutto sbagliato? Sì, ma non ho capito una cosa. È tutto sbagliato. Sì, scusami, non ho capito. Ma chi ha scritto sto diario? Ma perché non avete vice rabbino? Ma chi è il diario? Perché il diario di Anna Frank? Ma perché non esiste? Perché non esiste? Perché non esiste il vice rabbino? Ma cos'è il vice rabbino? Perché non avete il vice rabbino? Ma esisterà, ma non si chiama vice rabbino in Dante il numero 2, ma che roba è? Ma ti rendi conto fermo, che è tutto sbagliato? Sì, dai, amico mio, fatelo dire. Giocheremo con la maglia proprio contro ogni forma, no all'antisemitismo, con la maglia della cosa. Con la maglia della cosa ma è stupendo. Con la maglia di non Anna Frank. Non sa neanche chi è. Voleva dire dalla maglia di Anna Frank. Giocheremo con la maglia ma non sa, della cosa. Non sa neanche chi è. Senti, ma senti ragazzi, questa. Dai. La possiamo chiudere qui? Senti, possiamo senti chiuderla. Questo. Prevenire a reprimere certi fenomeni. Quando sono arrivato c'erano le curve con esposizioni di striscioni antirazzisti e chiaramente antisemite, c'erano bandiere con le... No, striscioni antirazzisti, insiste ancora, esponevano striscioni antirazzisti. Posso dirti, è imbarazzante. Poi c'è questa cosa qui, c'è questa cosa qui della sceneggiata che non si sente bene. Però dice famo sta sceneggiata, non c'è il rabbino, sta a New York, non c'è il vice rabbino, ma che cazzo so questi? A New York, il rabbino. Poi a un certo punto dice sono andato alla moschea invece della sinagoga. No, ti giuro. Vabbè, dai, è tutta una cosa imbarazzante. Dai. Andare alla moschea, sono andato tutto uguale. Io sono andato alla moschea a deporre una corona bianco celeste. La moschea ha sbagliato tutto. Ha pure sbagliato, ma la moschea ha sbagliato pure. Ragazzi, ma se no fa ridere, però ti rendi conto in che paese siamo? Sì, ho capito. Ma perché non è rimasto zitto? E faceva tanto no, bene appunto, a sta zitto. Meglio, è due zitto, anni che non parlava. Zitto. Cioè, guardate, chiedo scusa, va lì, no. Scrive A con l'H, va alla moschea. Chiede di Anna Frank, bussa, oh, volevo salutare Anna Frank, i parenti, le cose. Cioè, no, qua non ci stanno qua. Sono morti tutti in un campo di concentramento che si chiama Bergen-Belsen. Non ci sono niente, più. Dai. Oh, ma una ragazzina, è morta una ragazzina. Sì, quella che ha scritto il diario. Diario, diario di che? Si chiama diario di Anna Frank. Ah, per quello si chiama così, perché l'ha scritta Anna Frank allora. Mando sta questa, se manda la corona. No, e gli ebrei? Dove stanno gli ebrei? Gli ebrei a Roma, il rabbino. No, sta a New York. Ma perché a New York? È il vice rabbino, il numero due. Che cazzo ci sta allora? Che cazzo andiamo a fare? Dai, ma è una cosa imbarazzante. È imbarazzante io, tutta la situazione. Io voglio dire, perché non è stato zitto due anni? No, appunto, è da due bravo, anni che non parlava. Esatto. È da due anni dove che lo dito non parlava. Sì, esatto. Per incazzare ogni giorni. Volta che si muove combina un casino. In due ore ha fatto un casino tremendo. Sì. L'altra cosa è che comunque l'Italia è un paese meraviglioso, ragazzi. Il generale Pappalardo oggi è stato pizzicato da aver detto ai parlamentari che sono delinquenti, abusivi, figli di puttana, mafiosi, che violano la Costituzione, che dovrebbero essere arrestati, eccetera, eccetera. Si è andato a mangiare al Senato, ma Dio. Ma dai, su. Una papà, cosa anche questa. Ma Dio santo, ma com'è possibile? Dai, su. No. Ma com'è possibile, Dio santo? No, ma non fa una cosa comica. È comica. Dai, è andato a mangiare al Senato. Con ma questa dico, trasmissione della zanzara della minchia. Allora, grande casino al Senato sulla legge elettorale. Senti 5 Stelle che casino che stanno facendo. Senti. Sono di cacca sotto, c'erano tutti. Forza Italia, la Lega e il PD. Io sarò pure poco carina, ma ci stanno a più per culo, se dice a Roma. Vi è chiaro come funziona? Vi è chiaro? Funziona così. Tutti d'accordo? La fiducia su che? Siete tutti d'accordo? Voti della sta merda, no? Questa era la taverna, poi andiamo con Moronese, sempre 5 Stelle, stupendo. Ragazzi, l'Italia è un paese meraviglioso, vai! Il secondo effetto sarà quello di trasformare le prossime elezioni nel più grande vaffanculo day della storia d'Italia, quando i cittadini vi manderanno tutti a casa. Poi c'è anche Puglia, il senatore, credo, no? Masculo? Senatore Puglia, senti. La posta in gioco è molto alta, troppo alta. Non abbiamo paura di sparire noi, ma di avere un Parlamento con le solite facce di cazzo e un popolo che non rappresenta... Senatore Puglia! Mamma mia. E per concludere, ragazzi, mio amico Gianni Bezzi, telecronista della RAI. Telecronista della RAI. Gianni, lo sai che non perdono nessuno io, che te devo fare? Amico mio, ma... Anna Frank... Vorrei dire una cosa, il termine giovani, perché molti giovani non conoscono neanche chi sia Anna Frank. Parenzo, assumi Sabaeta, fatti, non pugnetti. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Allora, mattina, no? Sto andando in ufficio e pensavo che Parenzo è proprio scemo. Si collega, un saluto da New York, un saluto da New York. Ma che c'è stato solo te, Parenzo, a New York? Cioè, stai a far fanatico perché stai a New York? Sei proprio... Io non... Sei uno stronzo caccato per forza, ricordatelo. Tu manco dovevi esistere. Capito, coglione? Ecco, ecco, questo è un amico mio. Bel gruppo. Allora, puoi fare qualche lezione al tuo amico Cairo, che poi magari passa qualche lezione al suo allenatore Mikhailovic, allenatore del Torino, che forse tu sei a New York, queste cose le leggi poco, anche se non siamo negli anni 80, c'è cioè anche l'internet. L'allenatore Mikhailovic, interpellato ieri prima della partita con la Fiorentina, ha detto: Anna Frank, io non so chi sia, non conosco vabbè, la è legittimo, storia. Non io dico che è legittimo non sapere chi è Anna Frank, Ti arrivo a dire questo. È legittimo, ma infatti nessuno io non dopo è che obbligo a sapere chi è un Anna Frank. Un grande sondaggio della zanzara tra gli italiani. Sapete chi è Anna Frank? Ma quello va bene, ma quello non è il problema quello. Lo sai che sto mangiando? Non è che tutti... Sai che sto mangiando? Eh? Sai che non sto si mangiando? Mangia se vai in onda. No, ma sai, sto mangiando i caimani cotti. Cosa sono i caimani cotti disidratati con sale. Cioè, ho la nuova cosa moda, sono? La nuova moda sono gli insetti. Gli insetti da mangiare. Ti dirò oh, che, mamma mia, che porcheria. Nei prossimi giorni farò un grande banchetto qui in diretta alla radio. Sì. Voglio invitare tutti quelli che cucinano insetti a portarmi, sì, a portarmi qui in diretta le loro pietanze. Qui ho davanti ma a me. Ma di questo devi, le cavallette, le cose, devi ringraziare l'Unione Europea che ha dato il permesso. Sì. No, l'Unione Europea ha dato il permesso a allora, coltivare e cucinare. Caimani cotti disidratati. Poi ho qui i grilli cotti, sempre disidratati. E ho anche gli, a me fanno schifo, però. Gli scorpioni cotti con sale. Poi ti dirò: i dicono sia una prelibatezza. Allora, ma i caimani cotti sono ottimi. Ti dico solo questo: i caimani cotti sono ottimi, molto meglio delle patatine. Poi non so, magari sono pesantissime. Caimani cotti, ragazzi, meraviglioso. Oh, dov'è che vai tu il 9 novembre a Casa Pound a discutere? Sì. Non so se sai. 9 novembre mi hanno invitato, sì, a Casa Pound. Ho accettato questo invito. Sì, sì, vabbè, no, adesso non c'è bisogno di fare la lezioncina. Casa Pound, un candidato di Casa Pound a Ostia che si chiama Marcella. Marcella, Casa Pound. Sì, è il candidato sindaco, credo. Sì. È il senti che cosa dice. Senti che cosa dice sul fascismo. Tanto, sì. Giusto perché tu lo sappia, naturalmente. L'ho ospitato senti, in trasmissione. Senti che dice. Alla sede. Il fascismo per te che cos'è stato? Che rispondi? Il fascismo è stato un periodo della storia, secondo me, positivo per questa nazione, a cui noi sicuramente facciamo per alcuni versi riferimento, ma che oggi non serve di applicare. Fascismo, periodo positivo per questa nazione. Andiamo che oltre, andiamo sei. Oltre, sì, sì, sì. Andiamo avanti, andiamo avremo avanti. Modo di discutere, avremo modo di discutere. Allora, c'è quello stronzo quando dice... si mette da parte, sì, quando si mettono da parte le mazze e i bastoni, non dico che Casa Pound lo abbiano fatto, ma quando si può e si deve discutere. Benissimo. Di tutto, è questo la forza della d'accordo. Democrazia, quelli sono mi d'accordo. Hanno invitato. Ho visto dal loro sito che qualcuno è contrario e scrive delle cose molto dure e violente nei miei confronti. Fottitene, io ho detto mi avete invitato voi. Certo che me ne fotte. Io ho detto mi avete invitato voi, ragazzi. Non è che ho chiesto io di venire. Allora, e quindi vengo quello volentieri stronzo, a discutere. Quello stronzo faccio dice... male secondo te? No, benissimo. Quello stronzo ci di sarai anche tu, so forse. Sì, penso di esserci anch'io. Quello stronzo di Cesare Battisti. Bene. Quello stronzo di Cesare Battisti dice che in Italia ci verrebbe in vacanza. Poi ha detto una cosa su Torreggiani che è rimasto paralizzato, sì, il figlio, sì, del gioielliere, certo, nell'attentato. Certo. Torreggiani mi ha detto che non ha nessun dubbio che io non ho ucciso suo padre. La cosa è totalmente falsa, come mi ha detto il figlio di Torreggiani questa mattina, ma magari dopo lo chiamiamo, eh? Battisti. Sì, lo sai che io avevo una relazione con Alberto Torreggiani, ci siamo scritti durante anni, l'ho aiutato a scrivere un libro. Io ho lettere di Alberto Torreggiani dove lui dice testualmente che non ha nessun dubbio sul fatto che io non ho nulla a che vedere con la morte del padre. Ma la cosa, ragazzi, Battisti fa il suo gioco, che è quello di scappare, cioè fa il bandito terrorista che scappa. Siamo noi che non riusciamo a prendere e a portarlo in Italia. Dunque, certo, da un certo punto di vista, certo, non ha nemmeno torto, cioè può dire falsità, può dire cazzate. Beh, è un terrorista. Ha torto tutti. Sì, non ha torto in quello che dice adesso. Sanguinario. Cioè dice cazzate e vuole scappare. La cosa peggiore la dice Ferrero di Rifondazione Comunista. Sentite, Ferrero di Rifondazione Comunista, persona condannata, Battisti, per 4 omicidi. 4 omicidi. Senti, deve rimanere in Brasile. Una vergogna, Ferrero di Fondazione Comunista, o come cazzo si chiama adesso, ex di Fondazione Comunista. Ferrero, vergognati! Vergognati! Penso che non sia una priorità mettersi a chiedere che Battisti venga estradato. Ma pensa che debba essere estradato? No. No. Vergogna, vergogna! Allora, Miriam da Latina, vai Miriam. Ciao, buonasera. Dimmi. Appunto, mi ricollego a quello che avete appena detto. Allora, gli assassini come Cesare Battisti stanno bene in Brasile, non ci muoviamo neanche. Hanno ammazzato 4 persone, non fa niente. 2 ragazzini dei 13 anni che hanno fatto uno sfottò, hanno messo Anna Franca con la maglia della Roma, li crocifiggiamo. Non so, signora, nessuno li crocifigge, stanno cercando di identificarli. Pare che abbia la madre di qualcuno di questi. Stanno facendo una caciara che è assurda. Lei è la mamma di qualcuno di questi? Lei io è la mamma di qualcuno niente. Di questi adorati ragazzi, bravi ed educati. Con i problemi colti, che ci sono ragazzi. In Italia. È una cosa non esclude l'altra, signora. Tutta questa caciara una, per una cosa nessuno del fa genere. Nessuna caciara. È un'opinione però tempo. Rispettabile di Miriam da Latina, non che dire dice niente. È un'opinione rispettabile. Sì, come non vuol dire un dire cazzo. Non vuol dire nulla, perché nessuno sta perdendo tempo c'è rispetto una cagnara ai problemi pazzesca, principali. C'è una cagnara pazzesca per 11 si adesivi. Si discute di tutto in questo paese. Voglio ricordarlo, si deve dire 11 adesivi, non si può dire che sono 11 adesivi. 11 adesivi vergognosi. Certo, ma 11 adesivi. E anche questo. 11 adesivi vergognosi, su questo non c'è problema. problema? E qual è il problema? Di cosa stiamo parlando? Però qui ci sono gli assassini che vanno in giro per la strada. La gente e non allora uccide ne parliamo le donne in dopo un anno sta in giro. E i genitori delle che ragazze che hanno ucciso se li devono trovare di fronte. Ma no, cosa c'entra questo? Allora, i problemi seri qua, forse non avete capito che in Italia quando si sta discutendo di qualcosa di serio al governo si inventano tutte le stronzate del mondo per distrarre l'attenzione del cittadino. Adesso questa roba qui del complotto per parlare di Anna Frank che copre altri problemi, giusto i grillini come uno un grillino oggi come Barillari lo può dire questa cazzata. Non è questo, signora. Però lei ha ragione nel fatto che le istituzioni, i politici, tutti mobilitati, ragazzi, per 11 adesivi, vergognosi certo, ma 11 adesivi messi lì su una parte di una curva. Dai, le bastava fermo. Anche uno. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Pronto, pronto, prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno, non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Sono le 8 del mattino e sono un po' preoccupato per David. In questo momento a New York è notte fonda e so che Soros l'ha invitato in un hotel a 5 stelle per discutere di lavoro. Insomma, Parenzo è un bel bocconcino, Soros è molto molto potente, pressione psicologica, vabbè, speriamo bene. Tanto poi tra 20 anni ci racconterà com'è andato. Allora ragazzi, abbiamo con noi una persona che nelle ultime ore è stata al centro di polemiche, secondo me assurde, per un tweet che ha scritto. Per carità, non è che si risparmia mai frecciatine, eh? Però in questo caso devo dire che la gente non ha capito una mazza, caro Parenzo. Si parla ovviamente della vicenda... intanto sto mangiando gli scorpioni. Gli scorpioni cotti. Scorpioni cotti, infatti mi è andato di traverso. Erano meglio i caimani. Allora, dicevo, questa persona qui, che adesso è collegata con noi, ha scritto una cosa sulla vicenda di Anna Frank, dei tifosi della Lazio, eccetera. Ha detto, in sostanza, adesso non ricordo esattamente il tweet, non ce l'ho davanti, comunque, sarebbe stato peggio se avesse avuto, se invece della maglietta della Roma, avessero messo ad Anna Frank la maglietta della Juventus. Ragazzi, è chiaro che il riferimento è al fatto che la divisa della Juventus, essendo bianconera, ricorda le divise, le robe di Auschwitz, insomma, dei campi di concentramento, La prigionia nei campi di sterminio. Dunque non era contro Anna Frank, deficienti. Vabbè, Nina Moric, eccomi qua, ciao. Ecco, però si è dimenticato che ho scritto anche per ragioni cromatiche, cioè dei colori, giustamente quello che hai detto. Infatti io voglio innanzitutto chiedere scusa. Perché chiedere scusa? Hai fatto una... Aspetta, voglio spiegarmi meglio. Chiedo scusa perché purtroppo non è stato capito. Aspetta che il telefono funziona. Pronto? Male. Nina? Oh, richiamiamo dall'altro telefono, dai. Allora, Roberto da Roma intanto, vai Roberto. Pronto, Cruciani, dimmi, buonasera. Dimmi. Veramente siamo arrivati proprio all'esasperazione, tutti i telegiornali, prime pagine, il fatto di Anna Frank, di pensare alle cose serie. Ma parla meglio anche tu, non sentiamo bene da questo telefono, Roberto, sentiamo male. Pronto, mettiti meglio. Senti? Sì, ti sento, ecco, eri in viva voce oppure con l'auricolare, avanti. Sì, si levato. Stavo dicendo, veramente siamo arrivati al limite. Su ogni prima pagina delle Ma ragazzi, io non infatti uno sembra che se dice che stiamo parlando di 11 adesivi uno minimizza, no? Cioè uno sembra che uno sta minimizzando. No, ma non sto minimizzando. Solo. Ma certo, ma quegli adesivi sono una porcheria, è evidente che sono una porcheria. A parte che per molti sono anche un'opera d'arte, perché vedere oggi sui giornali la foto di Anna Franco con tutte quelle magliette di una squadra di calcio, molti hanno detto che è una specie di pop art. Ma non è sbagliata come cosa questa roba qua, no? Stupidaggine assoluta, che cosa vuol dire? Prendi l'immagine di una ragazzina Martina che è finita in campo di concentramento, cioè morta, e diventa un'opera d'arte, per carità, mi pare una follia. Se tutto sto dibattito serve semplicemente a far venire la curiosità a qualche somaro per andare a vedere chi è la storia di questa bambina, bisogna dire ben venga, allora, anche questa polemica. Voglio capire perché Nina Mori c'è, però vuole chiedere scusa. Nina, scusa, perché vuoi chiedere scusa? Eccomi, è caduta la linea. Sì, sì, dimmi. No, io chiedo scusa perché purtroppo non è stato capito. Maggior parte delle volte, tante volte quando scrivo le cose non sono capite e la gente le interpreta. Ma secondo te non c'è, un'eccessiva cagnara intorno a questa vicenda qua? Ma secondo me sì, soprattutto perché il mio avvicinamento al movimento Casa Pound. No, ma la cagnara in generale su questa vicenda, cioè è così grave mettere quegli adesivi là, 11 adesivi con la foto? Assolutamente sì, io condanno assolutamente il gesto. Però in questo momento io voglio che tutti noi facciamo un passo indietro, cioè stiamo facendo veramente, perché in questo momento io sto leggendo delle cose allucinanti, anche contro, adesso non so come sia andata veramente la storia, però lo tito, non mi sento di giudicare, perché io il video ho visto pezzettini del video dove lui abbia detto andiamo a fare sta pagliacciata. Cioè, sta sceneggiata la sinagoga. Sta sceneggiata, non so cosa ha detto. Però non è ben chiaro a cosa si riferiva. Senti, perciò non ho capito, ma secondo te. Il gesto di Mihailovic. Mihailovic ci ha detto che non conosce Anna Frank. Appunto, adesso ho capito, però cosa ne sappiamo noi se lui veramente Ha detto che non la conosce, E adesso vogliono condannarlo, condannarlo, non vogliono dire niente, cioè, semplicemente lo criticano perché non conosceva Anna Frank, cioè, punto e basta, cioè, non mi pare un delitto non conoscere Anna Frank. Una gogna mediatica stanno facendo. Vabbè, una gogna, sì, una gogna come al solito. Uno viene credo che sia giusto. Magari veramente non la conosceva. Sì, però... sì, magari non la conosceva, sì, non c'è dubbio. Quello. Ma secondo te andrebbe chiusa, per esempio, che ne so, la curva della Lazio andrebbe chiusa secondo te? Assolutamente no, per colpa di 10 persone di qua, mi sa, sono 3 ragazzini minorenni. Sì. Non credo proprio che deve essere chiusa, però deve essere controllata, cioè deve partire dalle famiglie. E questi qua che mettono, la gente deve essere informata, sì, la gente deve sapere questi argomenti, questo mi sembra giusto. Scherza. Perché calcio con politica non c'entra nulla. Ecco, queste robe qua mi sembra giusto. Questo mi sembra giusto. Che erano cadute dal 39 al 46. Senti, secondo te che va fatto? Sì, certo, antica, vecchia. Che va fatto secondo te a questi qua che mettono le cose, che mettono questi adesivi qua? Cacciare dagli stadi per sempre oppure devono studiare i minorenni, cioè questi ragazzini, come ho già detto prima, i genitori devono salvaguardarli, devono insegnare, devono farli capire che stanno facendo un gesto brutto. Perciò basta. Senti una cosa, credo che deve partire dalla famiglia. Senti una cosa, dato che sei qua ti voglio chiedere qualcosa sulla vicenda di Asia Argento. Ma che ne pensi di questa storia? Tu, a te ti hanno mai offerto, cioè, ti hanno mai chiesto di fare delle cose sessuali in cambio di una parte? Assolutamente no. Assolutamente no. Pensi che dopo 20 anni? Allora io veramente non mi sento di condannare questa cosa, questo progetto, niente, anzi, se la faccio e se l'ha detto dopo 20 anni. Ma non ti pare dopo 20 anni? Non ti pare dopo 20 anni che una... avrà sue buone ragioni, non lo so, io non la conosco personalmente. Ma secondo te che cos'è? Stupro? Che cos'è? Alcuni hanno detto addirittura che è prostituzione, cioè tu in cambio di dei favori. Ma quale prostituzione? Ma per favore, era una ragazzina, magari era impaurita. Non lo so, io non mi sento di condannarla, ecco, io non mi sento di condannare e non mi sento di giudicare. È diventata buona la signora Moric? Non è buona, ha detto non una cosa, io valuto le cose che le persone dicono, io mica a prescindere. Ha detto due cose di assoluto buon senso. Uno, che dopo 20 anni non è che si può giudicare perché dopo 20 anni questa ragazza, questa donna ha deciso di parlare. Non è che si può giudicare perché ha aspettato 20 anni. Magari è il momento opportuno per farlo. Prima era umiliata e non l'ha fatto. Quindi ha ragione su questo. E via la politica dagli stati. Anche questa è una cosa di assoluto buon senso. La politica con gli stati non deve c'entrare. Però una cosa è la violenza. Perché dopo 20 anni magari ha acquisito anche coraggio di farlo. Sì, però scusami. Nina, appunto, vede, non scusa, lo dice da donna, scusa, te lo dice da donna, scusa, appunto, Nina, però esatto, una fine. Che una che poi ha continua ad avere relazioni tra virgolette, rapporti con quella persona là. Stiamo sto parlando di una ragazzina di 20 anni. Vabbè, 21 anni che tu a 21 anni che eri una ragazzina, 20, non mi pare che a 21 anni. Ho capito, ma non tutti pensano lo stesso. Magari, sai, aveva voleva fare una carriera e tutto questo e sicuramente sarebbe stata banata se avessi parlato. Però io non mi sento di giudicarla, ecco, tutto qui. Va bene, ciao cara, se ciao. Se ha parlato significa che si è sentito di farlo, basta. Ciao cara, ciao. Saluti. A chi? A me. Allora, dove andiamo? Andiamo a Roberto, vai, Roberto, Roma. Grucia, infatti, che comunque sì. Cioè, stanno proprio esagerando questa storia, ci hanno stufato, qua si parla solo di calcio ormai. Basta. Ma che vuol dire si parla solo di calcio? In realtà non si parla di calcio, si parla tutto tranne che di calcio. Ma queste sono cose, sono spostate, queste ci sono sempre stati nel calcio, da sia da parte della curva nord che della curva sud. Ma non sono sfottò, non si sa perché. Se ne parla sempre quando accade. Non sono sfottò, manco per niente. Non se ne parla sempre. Avare, ma che stai sempre. A dire? Oh, quando accade se ne parla. Ma quante volte l'ho sentite sempre, se ne parla. Vabbè, ma Benedetto da Padova, dai, intanto è tornato di nuovo col viva voce questo deficiente. Benedetto da Padova, dai. Benedetto. Eccomi qua. Dimmi. Buonasera. Dimmi. A proposito di Asia Argento, io trovo assolutamente esagerato, fuori luogo, addirittura grottesco tutto il clamore che è stato sollevato. Vabbè, questo adesso lei non sta facendo una dichiarazione di un politico. Cioè, cosa sto dicendo? Io sono un politico. Appunto, io. Dico, allora? Sto dicendo quello che penso. Dunque? Allora, io penso che se è giustificata... Se si giustifica Asia Argento per il casino che fa, cosa dovrebbe dire a questo punto David Parenzo per tutti gli anilingus che gli tocca fare? Questa è stata una botta di genio, effettivamente. Come si chiama questo qui? Benedetto da Padova. Benedetto da Padova. Se Asia Argento si lamenta, cosa dovrebbe dire Parenzo dei così tanti anilingus che è costretto a fare? Cioè, delle leccate. Non è neanche una battuta. Sì, questo ho capito. Ma non mi sembra neanche una battuta così elaborata. Come fa a sapere lei che fa anilingus? A meno che Parenzo non sia intimorito, abbia paura e sia. Sì. Costretto di reagire, costretto no, io ho solo paura della sua ignoranza. È l'unica cosa che è come lei si rende ridicolo. Non ho che ho paura, mi dispiace proprio di come lei si rende ridicolo con questo telefono. Fermo, sono qua. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Tutti questi pseudo-artisti di merda! Anche quel culo rotto di Toscani! Con quelle tue foto di merda! Indietro con la negretta, il bianco e il nero! Che sei morta! Guardami! Ieri sera il signorino Parenzo è andato a cena al ristorante giapponese al Nobu di New York. $250 per due persone, pare l'immortacci tua, e non vuoi spendere 10 euro all'ora per sa baeta, ma sei veramente un peracottaro, pare vaffanculo, assumi la rom. Allora ragazzi, State un po' faticando, siete un po' degli scansafatiche. No, ma 8.000, non era quella la cifra, 8, però. Del beh, ragazzi, avrei pagato di meno perché ti sei fatto raccomandare, non lo so. Cioè, no, raccomandare da chi? Forse un po' di più, adesso non mi ricordo. Un po' di ma più, $300 per due. State battendo la fiacca, 8.880 e rotti, forse qualcosa in più. Bisogna arrivare a 10.000, a change.org. L'intervento degli ispettori Parenzo dell'ONU. Assumi la Rom, è un referendum illegale, come quello della Catalogna. È totalmente illegale. È totalmente illegale, non ha nessun valore allora, giuridico. Intanto voglio ricordare Toscani qui da noi ieri, cosa votano quei Mona, che cazzata è dividersi, eccetera. mi chiama Radio Padova e vuole la mia opinione. Vabbè, quello che allora, c'entra, uno chi t'ha chiamato? Sarà libero di dire quello che certo, la sua, la propria, certo, ma chiesto l'opinione sui veneti. Ma per me hai detto una cazzata. Per me hai detto una cazzata. Perché bene, chi per è andato questo a votare è un mona. Che vuol dire chi è andato a votare è un mona? È uno che ha espresso un'opinione sull'autonomia del Veneto. Cioè, ma dai, ma è un mona, scusa. Ma cosa va a votare una cazzata simile in un mondo che dobbiamo unire? Siamo diventati. Se c'è stata un'evoluzione dell'essere umano è perché ci siamo conosciuti da altri mondi, da altri posti. Dai, ma ho ragazzo, capito, ma che c'entra, la, ma che c'entra l'autonomia, l'autonomia, ma che c'entra l'autonomia fiscale vogliono, o i soldi? È con l'egoismo del cazzo, primordiale, primitivo, indecente. Cioè puro indecente. Egoismo del cazzo, tu dici, egoismo sì, del cazzo. Lo è, egoismo. Cioè, ma tu non ho capito che cosa vorresti? Ancora, beh, c'è per esempio, un po' questa vorresti idea ancora che i ricchi se ne vanno. Ma c'è che c'entra egoismo del cazzo? Se dividiamo i pezzettini di qua, i pezzettini di là, ma siamo diventati matti. Siamo qua che cerchiamo di fare un'Europa unita, questi mona qua vogliono dividersi. Poi però, se deve dare del mona a Zaia, non glielo dà perché è un potente. Facciamo un semplice ragionamento logico. Tu dici, è mona chi è andata a votare, sì, al referendum, giusto? Il presidente del Veneto è andato a votare al referendum. Dunque è un ma mona, non solamente lui, tanti altri. E dunque e non è che rivalga di più degli altri. No, d'accordo, però è un mona anche lui. Cioè, essendo uno che è andato a votare, è un mona anche lui. Ma non si sfugge. Se tu tiri le somme così, va bene. Appunto, non si... Ma no, ma lo dici tu, non dico, non pare... Non mettere, ma scusami, in bocca no, ma scusami, adesso io capisco che tu vuoi avere buone relazioni con il presidente del Veneto. Però ma non voglio nessuna relazione, il presidente non me ne frega un cazzo, ma il presidente del Veneto. Ah, del presidente del Veneto non te ne frega un cazzo, vabbè, d'accordo. Ma d'accordo, no, non me ne frega niente. Ragazzi, l'Italia è un paese meraviglioso. Sentite quello che accade alla Camera, credo, alla Camera dei Deputati. Sì, sì, sì, sì, alla sì, Camera sì, dei Deputati c'è un signore che si chiama Mario Tronti, senatore, anzi al Senato, credo, al Senato. Mario Tronti, senatore del Partito Democratico, ex Partito Comunista, nato nel 1931. Sentite cosa dice nel 2017. Volevo ricordare un evento di cui ricorre quest'anno il centenario. Il 24 di ottobre, secondo il calendario giuliano, o il 7 novembre, secondo il calendario gregoriano del 1917, sì, sì, certo, esplodeva nel mondo la rivoluzione, sì, in Russia. E sti cazzi! Non è finita qui. E ancora, ci senti, sta, senti, senti, sono senti, d'accordo. Se democrazia infatti è il kratos in mano al demos, il potere in mano al popolo, sì, quale strumento più democratico dei soviet, dei consigli degli operai e dei contadini? Ma insomma, mica tanto. E sti cazzi! La rivoluzione del 17 in Russia sta in mezzo a questo totale fermento. Beh, certo. Atto di liberazione che metterà in moto masse enormi di popolo e provocherà scelte di vita di piccole e grandi personalità. Certo. Non ho sentito bene. Ragazzi, su, nel 2017 uno in Parlamento non avete un cazzo da fare che parlare della rivoluzione d'ottobre. Dai, su. Giampaolo, provincia di Vicenza, vai. Dimmi, dimmi. Dottor Cruzani, grazie. Vai, dimmi, dai, forza. Dai. No, volevo dire, ieri sera mi sono dovuto ricredere sulla sua professionalità e ho capito che lei è veramente un uomo libero. In che che senso, come scusa, in effetti è riuscito, si sente bene oppure... Non si sente bene, vai, vai, dimmi Giampaolo. Ecco, dai, no, voglio ribadire, no, che lei veramente ieri sera ha dimostrato di essere un uomo libero contro il grande buono a nulla di Toscani. Toscani, che ha fatto? Ah, per, sì, per la cosa di Zaia. Toscani ha sputato addosso i veneti, ma lui dimentica, dovrebbe ritornare i soldi che ha fatto, li ha fatti con un'azienda veneta. Ma cosa vuol dire? Ma lui ha criticato quelli che non sono andati a votare, per me ha detto una cazzata, cioè quelli che sono andati a votare. Che sono andati a votare. Ma lui ancora tempo addietro, se lei si ricorda, ha tacciato i veneti da ubriaconi. Vabbè, allora... di sera. No, voglio dire che dovrebbe solo vergognarsi. Anzi, vorrei dire una cosa. Ieri sera, dalla pronuncia che aveva, Toscani era un po' ubriaco. No, non credo fosse ubriaco. No. Non credo fosse ubriaco. Guarda, o sta male, o sta molto male. Vabbè, Nicola da Bari, vai Nicola, vai. Grazie. Vai. Pronto, buonasera. Sì. Senti, io sul polverone che si è fatto su Anna Frank. Sì, allora? Voglio dire che si è ottenuto l'effetto contrario. Cioè? Nel senso, io ho visto questa foto di sfuggita. Mi sembrava una foto carina, ho detto, ma i tifosi romani ammirano, insomma, sì, era messa come dire, viene utilizzata da anni in senso denigratorio nei confronti sia degli ebrei che dei tifosi avversari in questo caso. Ma io questo parte della gente, questo è vero, la maggior parte delle persone vedono questa roba qua e non è che la interpretano in modo razzista o antisemita, dirlo, è così, cioè, la gente la vede e dice che bella questa ragazza, è una specie di foto pop. Lo sai che sarebbe straordinario, Parenzo, farsi in camera, adesso... aspetta un attimo, state zitto un attimo, avere in camera, farsi in camera un grande poster con tutte le foto di Anna Frank, con tutte le foto di Anna Frank con le magliette delle squadre di calcio, sarebbe meraviglioso, perché è veramente una bella cosa. Indirettamente questi qua, che non volevano fare un'opera artistica, hanno creato una specie di icona pop. Ecco, ma io ti posso dire questa cosa, fratello, sì, però, mio, ragazzi, ti voglio tanto però... bene da tantissimi sì, anni, sì, che cosa voglio c'è? Dirti questo, basta con tutto questo, evitiamo, basta Anna Frank, opera pop, basta. Ma che c'entra? Nessuno nega quello che è successo, basta, no? basta corone di fiori, loti, la moschea, che cazzo, basta Nicola, allora guarda, è imbarazzante tutto questo. Dimmi. È imbarazzante. Senti, io volevo dire, non è questo il discorso, sì. Qual è il discorso? Che avete fatto un autogol, l'autogol abbiamo fatto, che io prima gli ebrei, voglio dire, mi ero simpatico, adesso mi sono antipatici. Sì, così, in generale. Perché, ti sei antipatici? Come gruppo, perché, come cosa, in generale. Perché mi sono antipatici? Che perché? Ho capito perché? Che la Shoah è stata un genocidio messo in primo piano. In che senso? Attenzione a questa frase. La Shoah è un genocidio messo in primo piano. Che cazzo vuol dire questa frase? Gli armeni non se li cacca nessuno. Ma se tocchi gli ebrei, guai. Il genocidio degli armeni, cioè, se tocchi gli ebrei muori, dici. Se tocchi gli ebrei muori. Il genocidio degli armeni, io conosco un sacco di armeni. La masseria della Lodole, il libro meraviglioso della dottoressa Arslan. Certo, uno dei genocidi che hanno tormentato e distrutto l'Europa. Davide, fai parlare Nicola un attimo. Allora, stai zitto, perché adesso mi sei antipatico. Prima mi eri antipatico, poi sei un David di merda. Ma che ha fatto? Parla. Scusa, che ha fatto? Non ho capito. No, perché è ebreo. Perché è ebreo? E perché? Che c'entra che è ebreo? Perché lui, no, un attimo, lui può dire tranquillamente a me, terrone. Ma può non lo dire. Dice, però, che c'entra? Io dico che lei è un coglione, ma lo dico terrone. Tranquillamente. Dico semplicemente che lei è invece un coglione, no, terrone, coglione, ma bravissimo, è lei come bravissimo persona. Oh, beh, sì, io, ecco, lei appunto, mi dice terrone, però tu non ha capito, mi spiegaglielo. Offendi tutti i meridionali. Ma non è un terrone lei. Lei è un coglione, ma lei che sta parlando, non in generale tutti. Fai andare avanti. Sì. Se io non succede niente, ma se io dico delle parolacce a te, vado sul penale. Sì. Perché mi sa che essere antisemita viene perseguito per legge. È la stessa cosa. Com'è? È la stessa cosa. Pronunciamo sta cosa. Anti, com'è? Anti? Antisemita, semista. Questi semiti del tutto cavolo uguale. hanno rotto parecchio. Cruciani, tu che capisci? Beh, sì. Questa cosa. L'ha rovinato Cruciani, 20 anni di carriera, l'ha rovinato. Questa cosa. È lo stesso quando si ha detto il femminicidio. Il femminicidio, quando muoiono le donne bisogna piangere. Muore un automobilista. Cioè, va bene, ne muoiono migliaia di automobilisti. Che serve piangere? Invece, quando muoiono, è la stessa cosa. Quindi, secondo me, diciamo prima quant'erano? 100 antisemiti, adesso ne sono 101. Prima erano 100, che ce l'hai in più. Gente come me, altri avranno capito la stessa cosa. Cioè, tu sei diventato antisemita all'improvviso, così? Con questo polverone. Sei un genio. Come è diventato lei esattamente? Cosa è diventato lei esattamente? Voglio capire, non ho capito. Esattamente, lei cos'è di... antisemita, no, adesso imparare antisemita. Antisemita. Ah, va bene, va bene. Antisemita. Vabbè. Questo, no, questo guarda, mi scrive amico Gabriele, mio cugino termini... Gabriele, questo è un genio. Mio cugino Gabriele, grande manager, mi scrive in questo momento, questo è un genio. Beh, certo, è un genio. Non dico il cognome, Gabriele, grande manager. Vabbè, Nicola, vabbè. Ciao, Nico. Ciao. Vaffanculo. Ciao. La zanzara. Ragazzi miei, tra le grandi notizie di oggi, tra le notizie che fanno piacere, notizie, caro Parenzo, che riscaldano il cuore, dopo tanto brigare, dopo tanto accusare i senatori, i deputati, siete illegali, siete abusivi, devono arrestare tutti. Il generale Pappalardo è andato a mangiare, è stato pizzicato mentre mangiava al ristorante del Senato, dove si paga 10 euro. 10 euro. Il privilegiato Pappalardo. Pronto? Pronto? Sì? Sì, cercavo il generale. Chi è che lo cerca? Sono Cruciani. È Cruciani della Zanzara? Sì, lei chi è la moglie? Un attimo. Lei chi è la moglie? Caro Cruciani, buonasera. Come andiamo, generale? Ma diciamo che dovremmo farci una lunga chiacchierata, ma molto seriamente, perché le cose per i parlamentari stanno notevolmente peggiorando, perché dall'esame delle carte che noi abbiamo valutato è emerso che non sono stati convalidati. Sono abusivi sin dall'inizio? No, attenzione, no, il discorso è molto semplice. Loro nel febbraio del 2013 sono stati eletti, giusto? Sì. Nel gennaio del 2014 è intervenuta la sentenza della Corte che ha detto la legge non esiste più perché è anticostituzionale. Però, siccome sono stati proclamati eletti, possono rimanere, ok? Sì. Sono che non hanno curato un passaggio, che la Giunta per le elezioni ha convalidato, ha completato la proclamazione il primo luglio del 2015, un anno e mezzo dopo la sentenza. E come mai? Convalidare dopo la sentenza, la convalida è nulla, perché la legge non esiste più che convalida una cosa che non esiste. Abbiamo fatto una lettera alla Procura Generale il procuratore presso la Corte di Cassazione dicendo loro adesso procedete, perché questi stanno commettendo un delitto grave. Sono abusivi praticamente, questa è una bomba, è una bomba. È una bomba, clamoroso. Si sta diffondendo. Ma è uscita già? È già uscita questa notizia? Voi siete i primi a saperlo. Meno male. Generale, però mi scusi. Io sono qui a New York, ancora non, sono trasmesso da New York ora, e qui ancora non ne parlano di questa cosa. Ma è incredibile. Lei a New York è un uomo fortunato. C'ha i soldi, generale, quello c'ha i soldi. No, ma chi c'entra questo? Che Dio lo benedica. Quello c'ha i soldi. Scusi. Ma posso dirlo al console che incontro questa sera, al console italiano? Posso dire che sono tutti abusivi o no? No, seriamente. Sì, glielo posso dire tranquillamente. Okay. Se vuole, d'accordo. Se lei mi dà un'email, io le faccio mandare dall'avvocato la segnalazione formale che è stata mandata al procuratore generale della presso la Corte di Cassazione. Scusi, però, generale, io voglio capire una cosa. Lei è convinto ancora che questi siano abusivi, poi oggi l'hanno pizzicata che è andato a mangiare al Senato? Appunto. Attenzione, io vado a mangiare al Senato perché sono un curiosone. Ma amico mio, però. No, perché costa meno, amico mio! Perché costa meno di mortacci di Pippo! Ma io faccio anche il carabiniere. Io devo entrare, devo vedere come questi signori mi guardano e mi guardavano con un occhio molto molto è inutile che mi guardate così, perché prima o poi li arrestiamo a tutti. Ma scusi, io sono entrato provocatoriamente lì dentro, ha capito che vado lì dentro provocatoriamente. Sei andato provocatoriamente, no. Sì, perché io vado lì a vedere come si comportano, faccio il carabiniere, lei fa la zanzara e io faccio il carabiniere. Scusi, lei è andato a mangiare Cruciani, al Senato che è un paraculo. Sì, è un paraculo, generale, lei è un paraculo. 10 euro. Io sono un carabiniere. I miei carabinieri per andare a scappare i camorristi si infiltravano in mezzo ai delinquenti. Lei ha fatto sono infiltrato. Ma mica sono camorristi quelli. Ha capito, sono camorristi. Però ho capito, ha mangiato lo stesso che ha mangiato pasta e broccoli e alici. Che dovevo fare? Per entrare lì dentro non mangiavo. Quanto ha pagato? Mi hanno fatto pagare 10 euro. 10 euro, amico mio, ma primo, secondo e contorno. Lei è ipocrita, generale, glielo dico. Chiaramente. Lei è andato a pranzo dagli abusivi. Ma perché è un paraculo? ma perché non dici poi che anche al capo dello Stato che va a mangiare anche lui per 10 euro? Ma lei vada a dirlo al capo dello ma Stato. Ma che c'entra il capo dello Stato? Mica... anche lui mangia a 10 euro. Ma mica dice che il capo dello Stato mica dice che sono tutti abusivi e delinquenti. Scusi, lei è andato ma, io vado lì perché io devo assolutamente andare a fare la gente provocatore. L'agent provocateur. Lei fa la zanzara e io faccio il carabiniere. Dai forconi alla forchetta, dai forconi alla forchetta è passato. Che ha mangiato a 10 euro, scusi? Primo, secondo? No, ma non mangio molto, ho mangiato un'insalata, come perché un'insalata e poi non so altro. E una cosa molto simpatica invece la devo dire, che il cameriere si è avvicinato a me, mi ha avvicinato, mi ha stretto la mano, mi ha detto bravo, gli ho detto mi dia un po' d'acqua, no, le do un buon bicchiere di vino. E questo mi ha riempito di gioia, perché vuol dire che la gente mi riconosce per quello che sto facendo. Capito? Ci ha dovuto servirla per forza. Il vino, il ma è paranoico, capito? Pure. Ma che dice? Ha dovuto servirla per forza. Non è che era felice di servire il generale Pappalardo, che il sputa sulle istituzioni e poi mangia 10 euro. Mi aspettava. Le sto dicendo che io le offro un pranzo. Sì. Lei viene con me, cammina con me e vede se per caso la gente mi guarda per compatimento, ma se non mi guarda per compatimento la prendo a calci nel sedere. Sì, ma non è che uno se la compatimento va bene? Comunque lo sai che secondo me dovremmo andare in giro col generale Pappalardo una volta, Parenzo. In giro, ho già un curriculum compromesso. Sono già compromesso, non voglio metterci la botta definitiva, diciamo. Ho già i miei problemi. Caro Parenzo, lei è compromesso per gli affari suoi, non certamente per me. Se con me lei acquisterebbe invece il generale. Lei acquisterebbe prestigio se lei cammina con me, capito? Perché io non sono Totorrina. Però è lei che dice che il Parlamento è pieno di delinquenti e poi va a mangiare per 10 euro. Per 10 euro, gli do io 10 euro. Mi faccia parlare. Io vado a parlare mangiare nella caserma dei carabinieri, mangio meglio e pago 5 euro. Ah, si mangia meglio, si mangia meglio dei carabinieri. Io lo dico, nella caserma dei carabinieri mangio meglio e pago 5 euro. Invece alla camera pago di più, ha capito? E quindi incontriamoci che le offro il pranzo. Arrivederci, generale. Arrivederci. Salute. Io sono lombarda, voglio rimanere lombarda e voglio mandare tutti sti terronacci via. Anche io vado. Tu non sei terrone, tu sei marocchino. Eh già. Sembrava la fine del mondo. Tu non sei terrone, tu sei marocchino. Ma sono ancora qua. Tu sei marocchino. E io sono ancora qua. Eh già. Tu sei marocchino. Eh già. Tu sei marocchino. Eh già. Io sono ancora qua. Eh già, bastardo che siete. La maggioranza silenziosa è compatta con Paco da Belluno. Tu sei marocchino. Spada di fuoco. La zanzara. Tutti a parlare di Lotito, di Anna Frank, della maglietta della Roma, dei laziali fascisti. Sì, tutto vero, bravi. Ma quando cazzo ce lo dicono se Morgan ha mangiato la patata ad Asia Argento? Perché qui ormai passano le settimane e nessuno dice un cazzo. È impossibile. Dai, su, forza, facciamo un po' di giornalismo investigativo. Guarda, io ti denuncio, Caro Parenzo, abbiamo Lores da Vicenza, eccola qui. Me l'aspettavo certo, dopo il referendum certo. Di domenica, me l'aspettavo. Certo. Lores. Ciao Cruciani, ciao bello, ciao. Dimmi, che succede? Dimmi. Bello, lo chiama, bello. Allora, ieri sera c'era quel coglionaccio là, di chi? Deficiente Toscani. Là, Toscani, sì, che ha detto che siete dei Mona, quelli che hanno votato. Quel poro deficiente là, che se non fosse sta Benetton, faria le fotografie per i matrimoni e i funerali. Vabbè, adesso fai magari. Allora, io volevo dire a Toscanaccio, stronzo, imbecille di merda. Che ho votato sì, ma è un sì così, cioè bene. Intanto per tu andare sei, avanti, sei, capito? Perché noi siamo indipendentisti, bravo, sì. Tu sei indipendentista. Sì. certo. Con le buone o con le cattive la nostra indipendenza ce la prenderemo. Ma con le cattive sì. Che vuol dire con le cattive? Scusa, amica mia. Con le cattive. Andiamo avanti con calma. Con calma. E poi, che ho in mano anche stasera un buonissimo bicchiere di terra crua di Breganze, no? L'alcol era il problema. Che è la fine del mondo, perché noi... Noi produciamo bene, ci trattiamo bene, non siamo come miserabili che vivono, certo, sulle spalle degli altri. Ecco, ma tu che, certo, cosa faresti, certo, con l'Italia? La divideresti in quanti pezzi, scusa cara? Io non voglio dividere l'Italia, voglio che l'Italia vada fuori dai coglioni del Veneto. Basta, l'Italia può stare unita tutta, ma chi se ne frega dell'Italia? L'Italia deve restare unita, ma deve andare fuori dai coglioni del Veneto. Tutte le istituzioni italiane devono andare via dal Veneto, prendere l'autostrada di corsa quel giorno, perché se non vanno via di corsa tutti i terroni, questori, prefetti, che sono tutti terroni, che vogliono venire, sono spie dello Stato mandate qua, devono andare fuori dai coglioni, gli insegnanti terroni che non sanno neanche parlare l'italiano. Invece donna e vengono colta, qui e non sanno neanche parlare e a diseducare i nostri figli che non hanno neanche un po'. Ma tu mi spieghi perché tutti i test che fanno a livello mondiale di matematica, di scienze, i veneti sono i primi e qui ci sono 10-100 lode e giù in Terronia ce ne sono 1000. Ecco, ma me lo spieghi? Tu che cosa intendi per Terronia esattamente? Cioè, come geograficamente, per quale area del paese? Terronia, dal Po in giù è Terronia. E Napoli come la consideri, la città di Napoli, la Campania? Napoli è Africa. Napoli e la Campania? Reggio Calabria, cos'è Reggio Calabria? Africa. La Calabria? Africa. Africa pure quella. La Sicilia pure. Sicilia. Oltre l'Africa, cosa c'è oltre l'Africa? Ma Polo Sud, guarda. Polo Sud, cioè, fosse per te la Campania potrebbe anche sparire, diciamo. Tu non ti dispiacerebbe se ci fosse un mega terremoto? No, non voglio terremoti. Quindi in Terronia, perché dopo dobbiamo pagarli noi, pagarli noi come abbiamo sempre fatto. Non voglio nessun terremoto. Magari muore qualche persona, scusami. Quindi Toscani anche sono meridionali. Possono stare vivi, tutti vivi e vegeti e felici, ma fuori dai coglioni però, hai capito? Ho capito, ma io non ho capito, tu prima o poi, una volta mi hai detto che non avevi nemmeno la carta d'identità italiana, giusto? L'hai fatta sta carta d'identità italiana? Io ho il passaporto veneto. Ma non c'è il passaporto veneto. L'Italia è qui, che finché l'Italia ci sta occupando, è logico che noi dobbiamo sottostare alle leggi italiane, alle leggi dell'oppressore, alle leggi dell'invasore, è normale. Come facciamo? Davide non dice niente, normale, come mai Davide? No, ho detto solo che di normale nei suoi discorsi c'è molto poco, però insomma poco. Ma perché male, non dici niente stasera? Non ho capito. Non dici perché ha bevuto alcol, l'ha dichiarato prima lei, che beve vino. Quell'essere piccolo essere immondo. Ma è Veneto però, è Veneto però. Lores, ma Lores, per fortuna, Lores. Ma è nato per sbaglio qua. Ma per fortuna che non lo si vede più alla televisione, non più guardare la 7. No, perché quel verme lì c'era sempre. Adesso. Non potevo torno più adesso. Guardare la 7. Torno prestissimo. Invece. Di comunisti di merda. Di comunisti. Grandi imprenditori. Per te alla 7 sono tutti comunisti di merda? Tutti i grandi imprenditori sono tutti comunisti di merda perché vivono con i soldi che nostri. Che raffinata che è questa sera. Non sono capaci di fare impresa. Cioè l'ha preparata la polentina stasera? L'ha preparata la polentina? No, l'ho preparata ieri, coglione, la polenta. Ieri polentina? L'ho preparata. Cosa magnito? Polenta col formaggio? Però scusami, adesso col vino puoi tranquillamente brindare. Cosa magnito? Cosa ma no, il vino poverino parlate ha già in bene, problemi, tutti e due, parlate che... in Veneto, dai. Cosa magno? Cosa ha detto dentro che la testa? Cosa ha detto dentro che la testa? Te che scorese dentro che la testa? Te che solo che scorese dentro che la testa? Non te che è una testa, te che è una testa vuota. Te che è una succa vuota. Te che bello, bello, bello, mamma mia, quanto ti si baucca. Ma quanto ti si baucca? Perché non assumi la Roma a casa? Lores, perché non assumi la Roma? Non assumi tu la Roma al posto di Parenzo? Ma dire che le tue coglioni lì non voglio mia una singana in casa che mi roba tutto. Una scimmia? Una scimmia? Una singana. Una singana. Una singana. Come singana. Si dice? Singana. Deficiente minorato. Singana. Singana. Che bello, che com'è raffinata lei, signora. Senti, allora facciamo una prova. Allora io direi una cosa. Che famigliola che ha lei, però. Scusami, Lores. Però scusami un attimo. Io, se tu sei pronta, io ti farei il numero di Toscani, però parlaci solo tu. Ti prego. Vabbè. Attaccalo subito tu. Attaccalo, capito? Sì, volevo farlo ieri sera. No, ma attaccalo, attaccalo. Va bene, dai, sì. Vai, aspetta, aspetta un attimo, aspetta, fermo. Sera si dice. Aspetta, aspetta. Bauca. Aspetta. Bauca. Aspetta, aspetta. Di che state con i coglioni, va, che sa meglio. Bauca. Stupido. Aspetta. Sì, pronto. Toscani? Sì. Sta attento, bello, mi sono a Mona Veneta e sono qua con Bicciare de Terra Crua de Breganze. Coglion, che sono Gesara Benetonte, Parisi, le fotografie, i funerali e i matrimoni. Imbecille che non ci sia altro. Passa partiene a te desfo il culo forza de calci. Cretino d'un coglione. E adesso senti cosa che faccio. Sento cosa che faccio, merda stantia, sento cosa che faccio, tutti i veneti che comprano ancora una maglietta del Benetton, in sé, mone con che te visiti, Benetton in Veneto, a parte che quel ladro là vive con le autostrade e tutto il resto, ma Benetton in Veneto con l'abbigliamento, se finio, neanche il culo non se ne temo quei strazi del Benetton, che tu capio, coglion, d'un coglion, passa qua per Vicenza che vengo a trovarti, stupido della merda. Ciao. Coglione. Oh, Oliviero. Le scappa. Are so violent, they push and they pull. It's hard not to get swept away. This world is so restless, it's spinning circles and leaving me in its wake. Rein me in when I run astray. Your heavy chains, a warm embrace, forces work. Abbiamo trasmesso il Veneto contro Toscani. Lores da Vicenza attacca Oliviero Toscani. Mauro da Livorno, vai, Mauro. Sì, buonasera, pronto? Dimmi. Allora, prima di tutto, che la signora Nina Moric parli di politica fuori dagli stadi mi pare veramente un'incongruenza, quando qualche mese fa ha scritto che Allegri era uno sporco livornese comunista. Poi riguardo a un cambio di un giocatore fatto in campo, quindi veramente proprio il massimo. La seconda sì, cosa, giusto. Poi? Che siano sempre quattro scemi, quattro antisemiti, sono sempre quattro che fanno bu, quattro che tirano fuori lo striscione, quattro che mettono l'adesivi. A Livorno c'è la curva, tiene 3500 posti, non si alza un destillo senza l'autorizzazione dei capi della curva. Non si può, nessuno può mettere uno striscione antisemita, una bandiera antisemita. Sì, questo non è che, Livorno, sì, questo non è che sia. E si buttano fuori. Capito, magari ci sono immagini con la falce e il martello, però, non è che. Nulla di violento, certo. Però. Ma che nulla vuol dire? Di violento, ha ragione. Ho capito, però non è che una cosa va bene e l'altra va male. Cioè, No? Ma faccio il martello, mica è fuori legge. Stai scherzando. C'ha ragione questo ragazzo. No, di Livorno, non ha ragione, ha torto, perché in realtà il governo della curva da parte di quattro capi, come dice, non è una cosa positiva. Non è che perché ci sono questi quattro capi che impongono la loro legge e non si può alzare una bandiera o uno striscione antisemita, le cose allora vanno bene ed è un modello. Sono comunque sempre degli ultra che governano un territorio. Mauro, è inutile ultra, che dici cazzate. Non fuori legge, dai. Però. Non fuori legge. Ma che c'ha ragione. Una no. E poi non ma che vuol ragione. Dire ma fuori legge una no? C'ha quelli ragione. Sono di estrema sinistra, quegli altri sono di estrema destra, dai su. Ci sono un sacco di gruppi, c'è un collettivo. Vabbè, ma non me ne frega un cazzo adesso di come è organizzata la tifoseria del Livorno. Il punto non è questo, stai esaltando qualcosa che è esattamente speculare all'altra. Quelli no, sono comunisti e quelli sono fascisti. Una è fuori legge e l'altra no. Ma che fuori una legge, fuori legge dai. L'altra ma no, sono ci sono i delinquenti da una parte e i delinquenti dall'altra, dai, è la stessa cosa, identica. Su, non dite cazzate, dai, Viro, provincia di Teramo. Dai, state facendo l'esaltazione di qualcosa che non esiste, dai, cioè Biro, provincia di esaltazione, Teramo. Ha ricordato una cosa. Buonasera, posso parlare, parenza? Buonasera. Dimmi, Viro. Che cazzo di nome io è, Viro? Sono un tifosissimo della Lazio, sono cittadino Viro. albanese, ecco. Sono praticamente indignato per tutto quello che è successo. Sì. Per la prima volta in 13 anni della gestione Lotito sono orgoglioso di essere che lui è il mio presidente. Ma ha fatto un po' di gaffe ieri, ha fatto un po' di casino. Ha fatto la gaffe prima perché è indignato. Vabbè, che c'entra? Tradito. Che c'entra? Scusa, che indignato uno fa le gaffe, che vuol dire? No, no, gaffe Giuseppe. Ha detto che è una sceneggiata, andiamo a fare questa sceneggiata. Prima di tutti, a Moschea. Dobbiamo, prima di tutti ha difeso i tifosi a Lazio, quelli sani, perché noi tutti, tutti siamo indignati per quello che è successo. Vabbè, allora che vuoi dire? Non ho capito, Vino. A parte il fatto che sei indignato, che cosa ci vuoi dire? Voglio dire che addirittura si è scomodato la politica, compreso il presidente Mattarella, che ha detto che è un atto disumano. Vabbè, e allora? Atto disumano, allora? Io atto disumano chiamo le bombe che buttano sui bambini palestinesi, insomma, gli omicidi vari. Un atto disumano per quattro pagliacci che mettono gli adesivi, insomma. Sì, pure a me sembra una cosa eccessiva, francamente, una cosa eccessiva. Eccessiva. Cioè, parlare di atto disumano. Siamo indignati e siamo arrabbiati per questo che sta succedendo. Ciao, Viro, ciao. Perché ciao. Non lo meritiamo. Ho capito, forza ho capito. Lazio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Luciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi raccuori. Comunista di merda. Ma non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto imparare a camminare. Eh? Se non ci sei tu. Comunista di merda. La Zanzara. Come Macron. Miserabili. Farenzo, Farenzo, pensa che con 30 euro in due ore di lavoro ti ripulisci l'appartamento in una maniera stupenda. Parenzo, assumi la Rom. Vogliamo i roghi tossici a casa Parenzo. Parenzo, ci siamo! Sabaeta, a casa tua! Parenzo, sei un quacquaraquà, un chiacchierone, uno che non vale niente. Discorre e poi quando arrivano i fatti la Rom non l'assumi. Bene bene, male male, bene bene, male male, certamente, certamente, certamente. E non fai un cazzo. Lo voglio Muluni. Mangia mangiarlo Muluni. La Zanzara. Sta ascoltando il podcast come tutti i giorni, come per tre tifosi laziali imbecilli, per carità, chiudiamo la curva. Poi però dici non bisogna generalizzare sui rom o sugli immigrati quando magari succede qualche episodio in Italia. Non generalizziamo, guardiamo caso caso. E dai, e dai. L'adesivo di Anna Frank alla pari di una vignetta di Charlie Hebdo, uguale. Andiamo avanti e andiamo avanti. Daniele da Vicenza, vai. Daniele da Vicenza. Sì, ciao, ciao Giuseppe. Io volevo un attimo intervenire sulla questione di questi benedetti adesivi che sono apparsi in curva della Roma, no? Sì. Io volevo dire una cosa. Non mettiamola sul piano politico, sul piano calcistico, sportivo. Che vuol dire? È chiaro che è piano politico, se no, altrimenti che piano è? No, io volevo soltanto dire una cosa. Ci vuole un minimo di buonsenso anche nel giudicare gli episodi. Cioè? Io non capisco come mai a fronte di un episodio che riguarda delle figurine appiccicate a un muro, viene fuori un caso mediatico a livello nazionale, incredibile, mediatico, politico, vengono letti libri, vengono addirittura previste gite, chissà dove, quando... Che uno è libero di fare o non fare. Quando oggi, Giuseppe, a fronte di uno stupro di una ragazzina di 13 anni, da parte di due immigrati, nessuno si è indignato. Oggi è morta una signora di 79 anni a Modena, a Modena, aggredita da due immigrati per poche decine di euro. Nessuno si indigna delle politiche. Io non ho mai visto un minuto di raccoglimento. Ma è un criminale, ma cosa certo che è un criminale? Ma che cosa vuol dire? Bisogna farla finita, perché qui c'è un potere vale, in Italia, in Europa e nel mondo, un potere giudaico che comanda il mondo, Fermi tutti, che vuole fare le pace alle coscienze, che vuole fare le pace alle coscienze. Aspetta, mi sembra di capire però, perché mi comunicano che tu sei, il nome, per carità, non è un delitto, rappresentante di Forza Nuova in provincia di Vicenza, o sbaglio? Sì, sono rappresentante di Forza Nuova in provincia di Vicenza, ma non significa nulla. No, perché significa? Aspetta, Davide, avvicinati meglio al microfono. Cosa vogliamo negare? Lo strapotere che hanno certe lobby a livello Come si chiama questo di nome? Di nome, chiama questo qua? Si chiama Daniele Vicenza. Che è successo? Non ho capito che ha fatto Forza adesso. Nuova, aspetta un attimo, sto scrivendo. Daniele Forza Nuova Vicenza. Vabbè, ma che scusami, ha fatto? Scusami, Parenzo, benissimo, vogliamo negare perfetto. No, che non parlo con lei. Ci siano delle non posso parlare no? con Forza Nuova. Non posso vogliamo parlare con Forza che Nuova. Ci siano delle lobby, non posso parlare con Forza Nuova. Però sei antidemocratico, lascialo parlare e ribatti. Dili che è un cretino. Non parlo con chi? No, non dico che è un cretino, non parlo con Forza Nuova. Posso ma che scegliere vuol dire? Un movimento interlocutori? Io non ho detto non parlo con Forza Nuova. Non parlo con Forza Nuova. Ma non li leggi. Non parlo con Forza Nuova. E ho questo diritto. Io non parlo con Forza Nuova. Tagliatemi lo stipendio, ma io con Forza Nuova non parlo. Non parlo, non posso. Ma esistono, non posso confrontarmi neanche, non c'è confronto, no, non mi interessa Forza Nuova, scusate. Posso dirti che non mi interessa Forza Nuova, non mi interessa Forza Nuova. Ma non mi interessate, non mi interessa niente. Vabbè, per me è un movimento che avrei messo fuori legge, per me è fuori legge. Per me no, ci sta la democrazia, siete fuori legge per me, fuori legge. Siete fuori, non parlo con i fuori legge. Non parlo con i fuori legge. Non ho capito, secondo te esiste un potere giudaico mondiale, Daniele, scusami. No, hai detto prima, questo hai detto prima. Ci sono delle lobby. Hai detto sì, prima, delle hai lobby, detto. Certo sono delle ci lobby. Ci sono delle lobby a livello internazionale che gestiscono che le coscienze. Cosa? No, hai detto okay, gestiscono le coscienze. È intelligente questo qua. Hai detto prima che ci sono delle lobby giudaiche, così hai detto, delle lobby giudaiche. È sotto gli occhi di tutti, sì o no? Ma cioè il mondo è dominato dagli ebrei? Di chi? Beh, ci sono e allora perché ancora in libertà questo? Soros cos'è? Rockefeller cos'è? Sì, vabbè, no, cosa scende? No. Rockefeller non credo che sia ebreo. Sì, lei si sbaglia. Ma no, cosa vuol credo, dire? Io, cioè, no. Ma è una vecchia storia questa qua. Secondo te è una vecchia storia, ma è reale. Ma sono una roba. Visto tutti. Sì, spiegatemi, quando mai è stato fatto un minuto di ricollimento? Sono stati consegnati libri a dei bambini. Allora? In quale occasione in cui è stata stuprata una donna? È stata violentata una bambina? Ma cosa c'entra? È stata aggredita un'anziana? Ma è un'altra storia. È una ma sono altre, ma sono altre storie. Sono altre storie. Quelle riguardavano il calcio. Sono figurine che circolano dal 1990. No, Daniele, scusami. Ma allora? Di ultra è sempre esistito. Scusami, Daniele, abbi pazienza, però. Non è che uno può fare un minuto di silenzio negli stati perché una donna è stata stuprata dagli immigrati. Perché no, non c'entra. Io parlo di indignazione in generale. Ma indignazione generale, tanto chi è che, che c'hai l'indignazionometro? Che cosa cazzo hai? Ma scusa un attimo. Io non ho mai visto il mondo politico indignarsi come in questa vicenda. Ma non è vero, non è vero, è pieno di politici che si indignano ogni giorno per gli stupri degli immigrati o presunti tali, non dire minchiate, è pieno di forze politiche ormai, almeno due, tre forze politiche. Organizzare le gite da Auschwitz, organizzate ma non ho capito, le Auschwitz, per te che... gli hotel dove sono ospitati i profughi, nostre spese. Ma per te, ma per te, ma sono i delinquenti, i clandestini. Ma per te che organizzate le gite, no, da Auschwitz. Non ho capito, Auschwitz che cos'è? Per te che cos'è Auschwitz? Spiegami. Che cos'è Auschwitz per te? Adesso mi fai anche l'interrogatorio? Ma che interrogatorio? È una domanda, scusami Daniele, perdonami, è una domanda. Semplice. Ma scusate, chiedi al tuo collega, visto che No, a te lo voglio chiedere. Che cos'è Auschwitz per te? È un campo di concentramento dove sono stati riportati gli ebrei. Bene, quanti gli ebrei? Non solo. Il genocidio degli ebrei esiste o no? Esiste il genocidio degli ebrei come esiste il genocidio dei palestinesi ad opera degli ebrei. Attenzione, esistono diversi genocidi. Ah, è la stessa cosa. Quanti ebrei sono stati uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale? Non lo so, perché guarda, 6 milioni, 6 milioni, ha preferito non studiarlo. 6 milioni, 6 milioni, c'è chi dice 5 milioni, ma cosa è importante? C'è chi dice nessuno anche, c'è chi dice nessuno. Di Serie A, c'è chi dice nessuno. Di Serie A, Serie B. se prima ha chiamato il signore del Livorno, ha chiamato il signore del Livorno che parlava tanto di tifosi del Livorno, ma il mondo politico, Giuseppe, si è indignato perché i tifosi del Livorno hanno voltato le spalle durante il minuto del ripulimento per i morti di Nassiria. Sì, sì, come no, molte persone si sono indignate perché, perché fecero questa cosa, certo, certo, assolutamente sì. Le striscioni contro i morti delle foibe, ma lascia, ma, non, dai, ma su, ma questo, dai, le foibe, ma cosa vuol dire? Ma che c'hai l'indignazione? Ma che vuol dire? Vabbè, io indigna per quello, io sto parlando di ebrei, non ebrei, musulmani, non musulmani. Daniele, non io voglio dire una cosa. Ti dico solo, tu se sei, ti indigna, sì, ho capito. Secondo te Hitler ha fatto qualcosa di positivo? Sicuramente dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, ha fatto tantissime cose positive come, come Mussolini, ma sarebbe assurdo negarlo. Ma non negarlo che Hitler! Stavi parlando di Hitler! Ma il livello economico, guarda cosa fa Hitler! Hitler! Il signor Hitler! Ha fatto bene! Ma che ha fatto bene Hitler, cazzo! Forse è importante avere i nomi di tutti questi. Le crisi economiche della Germania negli anni 30, sì o no? È importante. Ma secondo te con questo qua, possiamo parlare di storia con questo qua? Non lo so, ma con questo asino, secondo te uno può parlare di storia con questo qua? Sono stati commessi errori. Ma secondo te con questo qua uno parla di storia, secondo te? Ma io non lo considero neanche, ma non posso neanche discutere. Ma secondo te io parlo di storia con questo qua? Ma lascia, ma non bisogna parlare di storia. No, ma parlo di neanche di politica, nessuna, poveretto, neghi, ma di niente. Il ma lei dovrebbe stare in una patria galera, non dovrebbe neanche poter parlare. Perché in galera? Ma lei dovrebbe, ma lei per me appartiene a un'organizzazione che dovrebbe essere resa per la legge, no, certo, però, per me, per la legge vedrai che tra un po' arriva quella giusta, vedrai. Guarda che non stiamo qua gridando viva il Duce, viva il Vedrai che tra un po' arriva, a parte che lo ha fatto, a parte che l'ha fatto. Arriveranno delle leggi prima o poi che renderanno, spero al più presto, illegale questo movimento agghiacciante. Ma no, quello l'abbiamo capito, Daniele. Però d'accordo, l'abbiamo capito. Però Daniele, scusa un attimo, per te Mussolini è stato un grande statista, sì o no? Ma ci mancherebbe altro, è stato grandissimo statista. Grandissimo, il migliore che abbiamo avuto, immagino. Beh, è stato l'ultimo. Se non l'unico, l'Italia, cioè, perché stiamo parlando di Berlusconi o di che? Cosa ha studiato lei a scuola? Cosa fa? Ma perché la democrazia fa schifo? Ti fa schifo la democrazia? La democrazia è quel sistema in cui si illude il popolo di essere sovrano. Perché ti ricordo che noi alternativa votato, c'è? Che alternativa c'è? Che alternativa c'è? Non un referendum. Avevamo votato no, ma lascia perdere, ma queste sono cose di. Ma io... il finanziamento pubblico ai partiti. E allora... il proprio è stato immesso. Dai, di cosa stiamo parlando? E allora? E allora? Poveretti, con gli immigrati, poveretti, che faresti? Tu tutti fuori gli immigrati? No. Gli immigrati vanno aiutati a casa loro. Tutti fuori, allora. Tutti fuori. Ci sono delle differenze, le differenze bisogna tutelarle. Bisogna tutelare le differenze. Fare un grandissimo miscuglio di etnie senza regole. A te, i mulatti non ti piacciono. Per noi, mulatti, anche per loro. I mulatti non ti piacciono, i mulatti. Le persone che hanno un po' che nascono dall'unione. No, io non giudico le persone. Ma tu ci staresti con una nera o no? Ci staresti con una nera o no? Forse sono gli israeliani. Ci staresti con una nera o no? Staresti con una nera o no? Ma cosa sai? Io preferisco che vuoi dei paesi tuoi, grazie mille. Cioè, preferisci una bianca? Una bianca, che è la mia cultura, una che è la mia identità. Cultura, la parola cultura, non usi la parola cultura, però. Non usi la parola cultura. Una nera, con una nera. Guarda che noi, caro Giuseppe, caro David, portiamo molto più rispetto agli immigrati di voi. Va bene, però ciao amico mio. Che gente vergognosa, che gente vergognosa. Ciao, che gente schifosa, che gente schifosa. Italiani! Parenzo! Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. E a me non me ne frega niente. Ma Parenzo, la penso il 99% delle volte come te, ma non sui Rom. I Rom sono una razza da far estinguere, da distruggere, da schiacciare, da spazzare via. Sono delle teste di cazzo, sono dei delinquenti, ne andrebbero messi a rogo. Parenzo, pensa che spettacolo! Il tovagliato, il broccato e Sabaeta che ti porta un bel topone arrosto, sai? Che spettacolo! Parenzo, assumi la Roma, maremma buona! A questo gioco al massacro io non ci sto. Ragazzi, io mi sto mangiando ancora il caimano, dei pezzetti di caimano. Che impressione. No, ma guarda, sono buonissimi. Sentite come si sgranocchiano bene. Ma chi è che te li ha portati, scusa? Erano qua, non so, l'hanno portati in un'altra trasmissione. Sono caimani cotti, disidratati con sale. Che stupendo. Porcheria. Non è che sono veramente... E intanto sentiamo l'Italia profonda, se sa chi è Anna Frank. Pronto? Buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Posso chiederle se lei sa chi sia Anna Frank? Ma guardi che il titolare non c'è, io per telefono non do informazioni, ok? Ma forse sa chi è Anna Frank? Buonasera. Anna Frank. Buonasera. Anna Frank. Pronto? Buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Buonasera. Buonasera. Lei sa, signora, chi è Anna Frank? No, mi dispiace. Guardi, le do tre possibilità. Dica. Allora, A, una partecipante al Grande Fratello VIP, una nota ginnasta del Liechtenstein, C, un esponente austriaca della Lega Nord. È un esponente austriaco della Lega Nord. Ma lo sa che in pochi ci azzeccano? Insomma, sto davanti alla televisione. Brava, signora. Dire. Va bene. La ringrazio molto. Prego. Complimenti. Arrivederci. Pronto? Solo una domanda. Lei sa chi è Anna Frank? Non lo so, quella lì è famosa. Sì, è famosa per che cosa? Non lo so. Potrebbe forse essere la candidata alle prossime elezioni per Casa Pound? Vabbè, comunque sto uscendo e non ho tempo. Lei sa, signora, chi è Anna Frank? Anna Frank? Sì. No. Pronto? Buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Signora, lei sa chi è Anna Frank? No. Allora, ci sono tre possibilità. Sì. Il vero nome di Barbara D'Urso, una calciatrice austriaca in forza al Frosinone, o la nuova fidanzata del pianista Giovanni Allegri? La seconda. Lei ha fiuto. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a lei, grazie. A lei. Facciamo un passo indietro, ragazzi, perché in realtà ieri è successa una cosa anche drammatica, se volete, una cosa drammatica, cioè dire la confessione da parte di Richard Benson delle botte che ha dato a Esther Esposito, Esther Benson, la moglie. Questa coppia così irregolare del sottobosco trash, se volete, sì, anche se a me non piace molto questa parola, del sottobosco trash romano, ormai quasi in disgrazia, è caduta, è ormai ai margini della società. Uno è ricoverato in ospedale forse per una caduta, ma si è salvato dalla morte. L'altra pare che sia in una struttura protetta, psichiatrica, non so dove, sull'Ardeatina. Ma partiamo dalle grandissime rivelazioni che ci fece quest'estate la signora Esther Esposito, cioè dire: Benson, Richard, mi picchia. È molto violento con me. Ma come me, mai sì. È violento con te? Scusa, non ho capito. Ma ti ha picchiato? Non so. Ti ha picchiato? Mi picchia molto spesso, sì. No, ma veramente sta dicendo? No, ma davvero è uno scherzo? No, è vero. Ma ti ha ferito anche? Roba di ospedale? No, quello no. Ragazzi, non gli va di parlare. Sì, ma tu vai via però, scusa, se questo ha fatto delle cose violente. Se ti picchia, vai via, violente. Scusa. Seriamente lo dico. lo stiamo dicendo seriamente qua, c'è un'emergenza. Ma dobbiamo avvertire qualcuno, scusami Esther. Esther. E dove devo andare? Ma su Cipolli? Ma ho capito, ma dobbiamo avvertire qualcuno, non è possibile stare. Dobbiamo avvertire qualcuno. Ieri sera però finalmente siamo entrati in contatto con Richard Benson, ricoverato all'ospedale Umberto I. Ha lasciato anche su Facebook il suo numero di telefono, dunque tutto regolare. Ha detto lui di chiamarlo, di esserli vicino in questo momento. Questa telefonata, caro Parenzo, la voglio riproporre. Sì, certo, perché, fai molto bene. Perché ci ha rivelato, ci ha confessato di aver picchiato la povera Esther. Come andiamo? Mi sembra bene, no? Ho letto da un tuo messaggio. Sì, molto bene. Molto bene. Dove sei? Sempre all'Umberto I? Sì. Ma dice che sei fuggito alla morte per la 30ª volta, così ho letto. Sì, è vero. Sono sfuggito alla morte 30 volte, scusa. No, dico, ma questa volta in che modo sei sfuggito? Ce l'hai fatta rispetto a che cosa? Cosa ti era successo questa volta? Ho avuto un incidente. Hai avuto un incidente grave? Porca miseria. Abbastanza. Ma come, sei caduto? Che hai fatto? Automobilistico. Ah, addirittura. Esther è preoccupata, che dice che hai perso un po' la brocca. No, Esther è ricoverata da un'altra parte. Ma come ricoverata? Pure lei ricoverata. Ma sei lucido, sei lucido. Io sono lucidissimo. Ma meno male, questo è importante. Ma scusa, Esther, che fine ha fatto? Sto per fare un gruppo con John Petrucci, un altro con John Macaluso. Sì, ma sei stato contattato anche da Ligabue, da quello che leggo. Certo, anche da Vasco Rossi. Da Vasco Rossi, ma quando ti hanno chiamato? Dove e quando? Mi hanno chiamato. Ah, ti hanno chiamato in ospedale? Sì. Lei come sta invece? Lei sono male. Cioè che c'ha? Sta male di mente. Ah, è depressa, dici? Bene, è che tu però sia è ricoverata lei poi Roma sull'Adriatina, in una clinica psichiatrica. Una clinica psichiatrica sull'Adriatina, ma veramente? Quando è che si è ricoverata? È da 2 mesi. Ci ha detto anche che tu l'hai picchiata, non so che hai fatto, cioè, ma è vero o no questa cosa qua, no? Sì, sì, è vero. Ah, l'hai picchiata? Però mi ridava. Come l'hai picchiata, scusa, non ho capito. Non va bene. Se non cioè non ho capito, l'hai picchiata come un bastone? Se lo meritava, ma che roba è? Ma come se lo meritava? Scusa, Richard. Io ho detto che se lo meritava, basta. Ma perché se lo meritava? Che ha fatto? Ma non si fa così, non si picchiano le donne. Certo. Ma non ho capito. Ma io faccio certo quello che cazzo mi pare. Adesso ti saluto. Ciao. No, ma aspetta un attimo, Richard, scusami. Richard. Questo, caro Parenzo, il riassunto della vicenda. Esther Benson, Richard Benson. Tu sei un criminale, non solo dai la parola a Richard Benson, ma in più ricostruisci anche tutta la storia di questo poveraccio, di questo malato. Ragazzi, però io voglio saperne di più, cioè prima o poi, sì, non so se oggi, ancora, domani, dopodomani, va richiamato finché è in ospedale va richiamato, certo, questo qua. È giusto picchiare una donna col bastone? No, dai. Ma per carità. Mario, provincia di Napoli, vai. Buonasera, dimmi. Io, visto che si parla tanto di ebrei, sinagoghe. Sì, ma veramente non è che si parla tanto di ebrei e sinagoghe. Comunque, tanto, sì, è vero, comunque, si parla di questa storia di Lotito e sinagoga. Sì, a proposito, uguale, ma perché uguale non avete il vice rabbino? Non ho capito. Il rabbino, il vice rabbino. Non, rabbino, non vice esiste rabbino. Il vice rabbino. Com'è la scenetta? Com'è che ha fatto? Ma ci sarà anche Lotito. Com'è che ha fatto? Com'è che ha fatto? Non so, Lotito. Come ha fatto? Dimmelo. Come ha fatto Lotito? Non lo so. Era lì con i suoi collaboratori. A un certo punto gli ha detto: Lotito, bisogna andare. Lotito, no, fate per Lotito, bisogna andare in sinagoga. Moschea, bisogna andare. Che sti cazzi, in moschea c'è un rabbino. Altro a New York, il rabbino, cioè sarà un vice rabbino. Qualcuno che può parlare. Ma poi, sti ebrei, chi sono sti ebrei? Dove stanno sti ebrei? Mario, vai. No, volevo fare una domanda a Parenzo, che ebreo. Io sono Lotito da poco tornato da Regno Unito, da Manchester. Dove? E ho visto tanti ebrei con quelle traccine vicino alle orecchie. Volevo sapere che significava. Sì, quelli sono ebrei. Ah, questa è una domanda molto interessante. Sono ebrei cosiddetti ashkenaziti, cioè che vengono dalla Mitteleuropa. No, però ragazzi, calma. Non ho capito. Che vuoi sapere, Mario? Non ho capito. Sono ebrei ultraortodossi. Anche ebrei, ragazzi di 15 anni. Sì. Sono ebrei ultraortodossi che vestono col loro abito tradizionale. Ebrei ultraortodossi sono. Vabbè, che vuoi sapere? E tu non hai intenzione di farti anche tu le treccine? Ma perché? Non è ortodosso? No, le treccine non me le faccio. Non sono ortodosso e non mi faccio le treccine. Vesto con ottimi abiti sartoriali. Sì, anche tu poi saresti carino con le treccine, sai? se vuoi fare certi giochini con Nicola tua moglie, da Treviso, anche tu mettiti le treccine, così sei più... Ma ti rendi conto in che degrado mi porti tu? In quale degrado Nicola mi porti? Nicola da Treviso ti porti in mezzo al popolo, invece di ma frequentare il Nobu e gli ambasciatori, i consoli. No, stasera vado, ho capito, appunto, stasera sono Nicola, ospite, vai, del consolato italiano, vabbè, c'è, vai, un importante evento qui a New York. Va bene, Nicola, dimmi. Oh, Nicola! Sì, pronto! E dai, forza! Allora, salve, da Treviso, trevigiano acquisito. E vabbè, sti cazzi, allora? Sì. Perfetto. Sì, no, sono indignato per quello che ha detto Toscani ieri. E vabbè, sei indignato, l'abbiamo capito, dunque andiamo avanti. Ce l'ha con i trevigiani, ce l'ha con i veneti. Beh, ce l'ha, abbiamo capito che ce l'ha un po' con i veneti, poi no, andiamo avanti. No, non con i veneti in generale, ce l'ha. No, ce l'ha con i veneti in generale, che ci ha dato degli ubriaconi prima e dei Mona dopo. Poi? Se non era per Benetton, era a fare le foto ai matrimoni e ai battesimi. Questo l'ha già detto prima. Ancora, pure, già pure detto, Lores, poi questo l'hanno già detto. Hai detto quattro cose che sono state benissimo già dette e ridette. Oggi mi hanno anticipato tutti. Poi? E dunque che cazzo resti a fare in onda? Non ho capito. Lo aspetto però in Piazza Signori, Piazza dei Signori. Sì. E gli offriamo un bel bicchiere di prosecco e viene a dirci in faccia quello che ha coraggio di dire solamente a voi alla radio. No, lo vuoi affrontare, come dire, De Visu, lo vuoi affrontare. Sì, sì. Che cosa faresti? Gli sputeresti in faccia? Che faresti? No, mai, no, quello mai. No, però deve avere il coraggio di dirlo in faccia. Io che vuol dire dirlo in faccia? Croce... Uno dice quello che pensa, punto e basta. Cioè, non è che uno lo dice in faccia, l'ha detto in faccia, l'ha detto alla radio, l'ha detto alle radio, l'ha detto qui, l'ha detto da un'altra parte, l'ha detto dove cazzo vuole. Venga a Treviso, sarà ospite dei trevigiani, gli offriamo un bel bicchiere di prosecco. Ma perché uno deve venire a Treviso? Ma chi vi si incula? Perché uno deve venire per forza a Treviso? Perché è facile dire che siamo sempre ubriaconi, che siamo dei Mona. Vabbè, Salvatore da Napoli, dai. Vabbè, hai votato sì, benissimo, Salvatore da Napoli, vai. Dimmi. Ma è beccato che sto mangiando, vabbè, che ma stai non mangiando? Non che mangi? 20 e 50 è presto. Sto mangiando un po' di alici fritti. Alice fritti, poi? È un San Pietro alla Quapazza. Mamma mia, ti tratti bene, Salvatore? Eh beh, certo, ti tratti bene. Dico, no. tu pensi di dire sempre male. Che di lavoro fai? Qua. Che ci lavoro fai? Sempre bene. Che lavoro fai, Salvatore? Io faccio l'imprenditore, però ti ho chiamato per un'altra cosa, Lucia. Io ti vorrei chiamare tutte le sere. Sì. Se posso, per ricordarti che sei una lota. Una lota, benissimo, lo sappiamo che sono una lota, lo sappiamo. No, l'abbiamo però già, lo vorrei ricordare, l'abbiamo già, sì, l'abbiamo già. No, non mi sfugge, non ti preoccupare, ce l'ho ben presente, non ti preoccupare. Ho detto tutto allora. Hai detto tutto, basta, solo questo. Sinalota, Sinalota, com'è che fa? Sinalota. Ci sentiamo domani. Ma che cazzo hai chiamato a fare? Questo è stato qua, mentre c'ha le alici in bocca. Ma le alici chiama fa? Le alici in bocca. Alici in altro posto ce l'hai. Ma che cosa c'ho? Che cosa ho, imbecille? Quello che ti piace, Luciano. Sinalota. Non mi piace il pisello. A te piace il pisello, forse. A me no. A me tu non... dici? Ma a me non piace, però non c'è niente. Non lo so, ma tu lo consideri 200, una cosa negativa. Sì, ma tu lo consideri una cosa. Sì, ma ho capito, tu la consideri una cosa negativa. Cioè il fatto che a qualcuno possa piacere Luciano. No, per l'amor di Dio, a me piacciono le donne, punto. È positiva per te. A pucchiacca, come si dice? A pucchiacca. Ma perché bisogna dirlo? A ciuccia, all'acqua pazza. Che cosa? Luciano, me ne devo andare, in Galice e ti ricordo che Sinalota. Arrivederci, e ci sentiamo un'altra volta. E vattene serenamente a fare in culo. Pure, ciao, vai a fare in culo, ciao. Ti devi spaventare! Bene. Ti devi spaventare! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.